Marco Cavallo è una statua che è stata realizzata nel 1973 nell'ambito di quella grande stagione della deistituzionalizzazione, quindi della chiusura da un lato degli istituti manicomiali che è partita proprio da Trieste e dall'altro della loro apertura in qualche modo al resto della città. È stata anche una grande stagione di rivoluzione culturale, se la vogliamo mettere così, non solo nell'ambito della cura e della salute, ma in generale anche della, appunto, produzione culturale e artistica nella nostra città. Nell'ambito appunto di quella stagione venne realizzata questa statua, questo grande cavallo azzurro di cartapesta che accompagnò tra l'altro appunto anche proprio l'abbattimento anche fisico del muro del manicomio di Trieste nel momento in cui appunto venne aperto al resto della città. Questo è direi il simbolo più riconoscibile, più riconosciuto a livello nazionale ma anche internazionale di quella storia, che è una storia che ovviamente continua anche oggi e che oggi è in pericolo proprio perché appunto negli ultimi anni era stato ospitato dal comune di Muggia in una struttura, in un deposito comunale, ma con il cambio di amministrazione che è avvenuto ormai un anno fa e quindi con questa nuova giunta a guida Lega è stata fatta la scelta di non rinnovare più la disponibilità di questo spazio, che è uno spazio fondamentale perché appunto la statua di Marco Cavallo, oltre ad essere un simbolo, è anche uno strumento proprio, gira per il mondo, accompagna diverse conferenze sulla salute mentale, iniziative appunto legate a questo tema e quindi il fatto di sottrarle la casa che permette appunto alla statua stessa di girare per il mondo è un grave, insomma, attacco evidentemente a un simbolo di una storia che forse non sta proprio nelle corde di questa nuova amministrazione di Muggia. Questo, diciamo, annuncio da parte del sindaco di Muggia è avvenuto qualche giorno fa oramai. Nel frattempo non si è trovata una collocazione alternativa? Al momento no, non ci risulta appunto che si sia trovata una soluzione, perlomeno una soluzione definitiva che permetta, e questo poi è anche il nostro punto di vista sulla questione, non solo di poter ricoverare adeguatamente quest'opera d'arte, ma anche di renderla per esempio fruibile alla cittadinanza, quindi visitabile, insomma visibile in qualche modo all'interno della città. Per noi ovviamente, ed è il motivo per cui abbiamo presentato una mozione al Consiglio Comunale di Trieste chiedendo all'amministrazione di mettersi in contatto con l'associazione Franco Basaglia, che è l'associazione di volontariato che è proprietaria dell'opera. Per noi sarebbe molto importante riportare Marco Cavallo dove è nato, quindi a casa sua nel nostro comune, e individuare appunto di concerto con il comune, che ha diversi spazi inutilizzati che potrebbero essere utili allo scopo, una soluzione definitiva che permette appunto di preservare l'opera, di renderla visitabile, fruibile, vivibile e poi anche di continuare a farle fare il giro per il mondo come ha fatto negli ultimi anni. Questa è la vostra proposta, l'amministrazione cosa ha risposto? Beh, diciamo che i segnali per il momento non sono purtroppo positivi, anche a Trieste c'è una giunta di destra, crediamo che insomma, dal punto di vista diciamo ideologico e quindi anche di visione sul mondo della salute non ci siano purtroppo grosse differenze con quella di Muggia. Tra l'altro, al di là dei simboli, il sistema della salute territoriale, che è una diretta eredità insomma, di quella stagione della rivoluzione basagliana dei manicomi, è oggi sotto forte attacco per un ridisegno della sanità che privilegia gli ospedali, che apre i privati, che appunto chiude molte esperienze territoriali, per cui non stiamo parlando soltanto di un simbolo e della difesa di un simbolo, stiamo parlando ovviamente anche della difesa di un modello di salute che mette al centro la persona e i diritti della persona, che oggi è sotto attacco esattamente da quella stessa maggioranza che da un lato a Muggia ha sfratta Marco Cavallo e dall'altro a Trieste pochi giorni fa ha negato l'urgenza alla nostra mozione, che quindi ora avrà un iter molto più lungo per poter essere discussa in Consiglio Comunale, per cui insomma non ci ha stupito il fatto che una maggioranza di colore politico simile abbia preferito coprire politicamente il sindaco di Muggia Polidori piuttosto che invece difendere quello che è un simbolo di un pezzo importantissimo di una storia che ovviamente ha una rilevanza internazionale ma che è molto importante anche per la storia stessa della nostra città.